ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Quarta puntata. Tornava da Nuoro e Anna non lo riconobbe, tanto egli s'era fatto alto e bello. Durante quelle vacanze, un giorno, mentre infuriava un temporale, egli le spiegò, meglio che non l'avesse fatto la maestra di terza elementare, perché l'aria rimbomba dopo che il fulmine l'ha attraversata. «Io credevo che il tuono fosse la voce di Dio», e la disse un po' scherzando, un po' seria. «Stupida, Dio non esiste», e gli disse guardandosi attorno, pauroso d'essere sentito dai suoi nonni. «Paolo, che dici?» ella mormorò con terrore. «Se ti sente Don Simone, se ti sente Prete Virdis». «Prete Virdis è un chiacchierone, un peccatore come tutti gli altri uomini. Dio non esiste, no, Annessa? Se Dio esistesse, non permetterebbe che nel mondo accadessero certe cose. A parte la solita storia dei ricchi e dei poveri che nascono tali senza averne merito o colpa, ci sono tante altre ingiustizie nel mondo. Tu, per esempio, perché sei senza padre e senza madre? Perché non sai neppure chi sei. Vedi, se io volessi sposarti non potrei». Annessa impallidì, sebbene non avesse mai pensato, neppure in sogno, di sposare il figlio dei suoi benefattori. Poi gli anni passarono. Un giorno in casa De Cherchi accadde una cosa spaventosa. Il padre di Paolo cadde nel cortile come se avesse inciampato e non si sollevò più. Le sue ultime parole furono rivolte alla moglie. «Rachele, ti raccomando, quel fanciullo». E Gantine, il ragazzetto che la voce pubblica diceva figlio del morto, fu preso in casa come servetto. Gli altri servi, poiché Gantine era quasi ancora un bambino, neppure buono a scorticare un agnello, lo maltrattavano e lo deridevano. Egli si lagnava con donna Rachele. «Figliolino di Dio», gli diceva la santa vedova, «abbi pazienza, di loro che crescerai e diventerai più abile di loro». E zio Cosimo Damiano, il padre di donna Rachele, aggiungeva: «Figlio di Sant'Antonio, di loro così, frati vanno e frati vengono e il convento fermo resta. Voi siete frati randagi, andrete, verrete, ed io resterò sempre nel convento». Donna Rachele sgridava il padre perché figlio di Sant'Antonio vuol dire bastardo e perché non voleva che i servi avessero a mormorare per la risposta significativa consigliata a Gantine. Ma Don Simone interveniva sorridente e sereno come sempre. «Lascia passare 30 giorni per un mese. Lascia che dicano quello che vogliano, tanto il prossimo non è mai contento». E la pace regnava in famiglia. Ma in quel tempo, appunto, cominciò l'esodo dei servi. Prima uno, poi un altro, poi tutti. Rimasero soltanto Gantine e un servo pastore, chiamato Ziu Castigu, perché era un po' scemo. Poi anche questo fu licenziato. La famiglia cadde in rovina, precipitava sempre più giù, più giù, più giù, in un vuoto pauroso. I debiti di tre generazioni, i 300 scudi che Don Simone aveva preso dalla banca agricola, le cambiali in bianco di Don Pilimu, gli interessi del 200% dei debiti di Paolo, divorarono in pochi anni le tancas, le vigne, le greggi, i cavalli dell'intera famiglia. Donna Rachele piangeva e diceva: «Vedete, è stato come il fico d'India, da una foglia ne sono nate mille». Sulle prime anche Don Simone e Zio Cosimo Damiano piangevano e si bisticciavano, ma col tempo si abituarono alla povertà e Don Simone Ritornò sereno e sorridente e ripeté il suo filosofico ritornello: lascia passare 30 giorni per un mese. Paolo, dopo essere stato cacciato via dal seminario di Nuoro, non aveva voluto proseguire gli studi. Si divertiva, come si divertono molti piccoli proprietari sardi, correndo di villaggio in villaggio per le feste campestri. Tutti i mendicanti della Sardegna, che vanno appunto di festa in festa, lo conoscevano. Anche i ciechi dicevano: «È quel cavaliere di Barunei, Don Paolo de Cherchi, un ricco ispassusu». Nei villaggi egli prendeva denaro dagli usurai, nelle feste lo sprecava. Pareva pazzamente innamorato della vita. A giorni era buono e allegro, a giorni cattivo e violento. Annessa ricordava. Ora Paolo era diventato docile e mansueto. Gli anni e le sventure lo avevano domato come un puledro. Ma allora, quante volte l'aveva bastonata perché ella faceva l'amore con Gantine. Vergognati, sfacciata, egli è un servo, è un bastardo. E io? Non sono una serva? Ella rispondeva piangendo. Non sono anch'io figlia di nessuno. Egli ha 10 anni meno di te. Gli anni non contano. L'albero giovane intreccia i suoi rami con quelli dell'albero vecchio. Gli occhi di Paolo splendevano come gli occhi di un gatto selvatico. Ingrata, sfacciata, mantenuta per l'anima. Ella, che amava Gantine perché assomigliava a Paolo, così come si ama il fuoco perché ricorda il sole. Piangeva, taceva e lavorava. Era diventata davvero la serva di casa. Ma anche donna Rachele lavorava, pregava e taceva. In quel tempo Paolo si ammogliò. La sposa era una fanciulla nobile, bella, ma povera e malaticcia. Per un anno i due sposi vissero felici. Donna Callina era buona e rendeva buoni tutti quelli che l'avvicinavano. Il marito parve diventare un altro, ma dopo la nascita di una bimba dalla testa enorme, la giovine sposa ammalò gravemente. Don Paolo la condusse a Cagliari, a Sassari, nel continente, ma donna Callina morì e un'altra tanca fu venduta. La casa divenne triste, solitaria. I mendicanti non insistevano più come prima per ottenere l'elemosina. Gli ospiti si fecero rari. Don Simone sorrideva sempre, ma con tristezza, e ripeteva che bisognava rassegnarsi a lasciar passare 30 giorni per un mese, ma borbottava perché la gente non crede più in Dio e quindi commette il male. Zio Cosimo Damiano, con la piccola Rosa tra le braccia, conveniva che il timor di Dio è un freno contro il male, ma difendeva gli errori e le debolezze umane. Gli uomini sono nati per il peccato e la bimba, vivente risultato di molte debolezze e di molti errori umani, piegava l'enorme testa sull'omero del vecchio e non protestava. Intanto Annessa si era fidanzata con Gantine dopo aver chiesto il consentimento dei suoi benefattori. Ella aveva passato i 30 anni. Che aspettava? Gantina era povero ma buon lavoratore. Si sarebbero sposati appena i De Cherchi avessero dato al giovine un po' del denaro che gli dovevano. Ma il tempo passava e il denaro non si vedeva. Il giovane fidanzato era allegro, buono e sereno come Don Simone. In quel tempo Annessa cominciò a non credere più in Dio perché la famiglia dei suoi benefattori cadeva sempre più in rovina. Era mai possibile l'esistenza di un Dio così cattivo? I De Cherchi non avevano fatto altro in vita loro che temerlo, adorarlo e seguirne i precetti, ed egli li ricompensava mandando loro ogni peggiore sventura. Ma d'un tratto il Signore parve muoversi a pietà della famiglia così a lungo duramente provata. Ziu Zua, un vecchio parente avaro che era stato alla guerra di Crimea dove aveva perduto una gamba, propose ai De Cherchi di prenderlo in casa. Avrebbe dato un tanto al mese e poi fatto testamento in favore di Rosa. Era vecchio, soffriva d'asma, aveva paura di venire derubato. Paolo non amava questo vecchio asmatico al quale era spesso ricorso invano per farsi prestare denari. ma non si oppose a che egli venisse in casa. E zio Zuo venne e prese posto accanto ai due nonni, che usavano star seduti fuori della porta di strada, simili a due vecchi leoni vigilanti l'ingresso d'un palazzo incantato in rovina. La gente passava, ascoltava le discussioni e le chiacchiere dei tre vecchi e li chiamava i tre magi con cinque gambe. Zio Zuo ansava e parlava male dei giovani d'oggi, alludendo a Paolo. Don Simone ammetteva che il nipote s'era rovinato perché non aveva mai avuto timor di Dio. Ma zio Cosimo Damiano, con Rosa sulle ginocchia, stringeva le labbra e difendeva i giovani d'oggi. Tutti siamo stati giovani ed abbiamo commesso i nostri errori. Il Signore disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Per chi vuoi dire? Gridava il vecchio asmatico, tirando fuori dal petto velloso la medaglia al valor militare. Guarda, guarda qui, la vedi o non la vedi questa medaglia? Guardati in essa come in uno specchio. Don Simone fingeva di specchiarsi e si accomodava le berrette e poi diceva: veramente non è molto pulito quello specchio. E zio Cosimo Damiano esclamava: ma figlio di Sant'Antonio, chi accenna a te, zua de che? Però, vedi, è appunto chi è senza peccato che scaglia la prima pietra contro il peccatore. Chi è senza peccato non compatisce, non compatisce. Poi zio Zuo raccontava i suoi ricordi di guerra. La sua voce dispettosa si raddolciva e spesso egli piangeva ricordando che la marmora gli aveva stretto la mano. Un giorno poi zio Zuo cadde per terra come era caduto Don Pilimo. Non morì, ma quando lo sollevarono, la sua gamba destra era rigida e morta, peggio del bastone ferrato che sostituiva l'altra gamba. Lo misero a letto e non si alzò più. Egli diventò insoffribile, nascose sotto il guanciale le sue cartelle di rendita e non le affidò ai parenti neppure per riscuoterne gli interessi. Di notte si svegliava gridando che volevano derubarlo e pretendeva che Annessa dormisse nella camera ove dormiva lui. Paolo cominciò a odiarlo e Annessa lo odiava perché lo odiava Paolo e Gantine lo odiava perché lo odiavano loro. Fra le persone rimaste fedeli e affezionate alla disgraziata famiglia c'era zio Castigu, il vecchio servo diventato pastore a Sulus, vale a dire che aveva acquistato un certo numero di pecore e le pascolava per conto proprio. «Girate tutto il mondo», diceva con ammirazione parlando della famiglia presso la quale aveva servito per 40 anni, «provate pure a girarlo se volete». Non troverete una famiglia più nobile e più buona. Don Simone, ma se Dio morisse, gli angeli del cielo eleggerebbero Don Simone a signore loro e nostro. Bisogna rispettare persino le scarpe di Don Simone. In paese lo deridevano per questo suo feticismo. Il messo, ogni volta che lo vedeva, gli domandava: «Beh, è morto il signore?» «Anche prete Virdis, il rettore». Quando zio Castigo andò a confessarsi lo trattò male. «Angelo Santos!» Prete Virdis usava questo intercalare anche coi suoi penitenti. «Non dire più queste cose, fratello mio, il Signore è uno solo e non morrà mai, neppure dopo che avrà fatto morire tutti noi». Ma zio Castigo non smetteva di lodare la famiglia più nobile del mondo. Anche Annessa godeva tutta l'ammirazione e la confidenza di zio Castigo. Una volta egli le confidò di essere innamorato di una bella e ricca fanciulla del paese e la pregò di un favore. «Voglio mandarle una lettera. Scrivila tu». «Perché ridi?» «Perché io non so scrivere lettere». «Non importa, non sei un avvocato tu. Basta che tu scriva così: Maria Pasquala, anima mia, ti amo e se tu mi vuoi ti metterò entro una nicchia». «Vanessa, fammi questo piacere per scrivere la lettera. Ti porterò un foglio di carta d'amore che potrebbe essere mandato anche alla corte reale». Annessa promise di scrivere la lettera e zio Castigo portò la famosa carta d'amore, che era poi uno di quei foglietti traforati e adorni di un cuore ferito usati dagli studentelli per le loro prime dichiarazioni amorose. Ma la dichiarazione non ebbe l'esito desiderato, anzi, un fratello di Maria Pasquala un giorno, nel vedere Ziu Castigu passare davanti a casa sua, lo rincorse col pungolo. Il pastore fuggì come un cane a cui si è messo il fuoco sul muso. Un giorno Ziu Castigu invitò al suo ovile i suoi amici e anche i suoi ex padroni. Ziu Cosimo Damiano, Paolo e Annessa accettarono l'invito. L'ovile era quasi in cima al monte di Santo Ioanne, una specie di prealpe di là della quale il Gennargentu chiude l'orizzonte con le sue cime e i suoi profili argentei, enormi rocce di granito sulle quali il musco disegnava un bizzarro mosaico nero e verde, si accavallavano stranamente le une sulle altre, formando piramidi, guglie, edifici ciclopici e misteriosi. Pareva che in un tempo remoto, nel tempo del caos, una lotta fosse avvenuta tra queste rocce e le une fossero riuscite a sopraffare le altre ed ora le schiacciassero e si ergessero vittoriose sullo sfondo azzurro del cielo. E le macchie e le querce, a loro volta cessata la lotta delle pietre, avevano silenziosamente invaso i precipizi, s'erano arrampicate sulle rocce, avevano anch'esse cercato di salire le une più su delle altre. Tutte le cose in quel luogo di grandezza e di mistero assumevano parvenze strane, e gli uomini solitari che dovevano vivere a contatto con le rocce, alcune delle quali avevano forme di mostri, e questi uomini comunicavano con l'animo della montagna sussurrante nei boschi e intendevano ciò che diceva il rombo del vento e il fruscio delle foglie cadute. Questi uomini avevano naturalmente creato mille leggende e le avevano collocate nei punti più orridi e più poetici del luogo. Vicino all'ovile di Ziu Castigu, per esempio, poco lontano da una chiesetta medievale, si scorgeva su una cima una lunga roccia in forma di bara posata obliquamente su un enorme masso quadrato. Ebbene, là dentro, in quella tomba alta e solenne che un imperatore poeta non avrebbe sdegnato, la fantasia popolare rinchiudeva un gigante ucciso a tradimento dai nani astuti che un tempo popolavano la montagna. Durante la colazione, gli invitati di Ziu Castigu, seduti all'ombra di alberi millenari, non parlarono di altro che di queste leggende. Due vecchi sposi ricordarono il viaggio di nozze di un avo di Don Paolo. Egli sposò una dama di Arizzu. Da Arizzu a Barunei gli sposi furono accompagnati da 27 parenti che montavano magnifici cavalli bai. Solo gli sposi cavalcavano su una giumenta bianca. Attraversarono una montagna e, giunti qui, salirono sulla tomba del gigante dalla quale si scorge il paese e tutti spararono in alto i loro fucili. Sembrava una battaglia. «Voglio salire lassù. Chi viene?» domandò Paolo, che aveva bevuto abbastanza e sembrava allegro e ringiovanito. Ma gli altri erano quasi tutti vecchi o stanchi e preferirono sdraiarsi all'ombra degli alberi. Solo Annessa seguì il giovine vedovo e nessuno mormorò. Tutti erano abituati a considerare Paolo e Annessa come fratello e sorella. Elisabetta Piccolomini ha letto